in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo dal Corriere dal Sole 24 Ore, scusate, perché la forza l'abitudine, perché oggi proprio il titolo principale del Sole 24 Ore è dedicato alla manovra, alla legge di stabilità ex, che una volta si chiamava finanziaria, che verrà poi ulteriormente discussa, però ha preso forma. Ieri è stato molto acceso il dibattito, anche costruttivo direi, durante il convegno dei giovani industriali di Confindustria che si tiene a Capri, e quindi il Sole 24 Ore riassume un po' tutti gli interventi di ieri, partendo da quello del presidente Squinzi. Bene, la manovra adesso non va cambiata, perché il problema con l'esperienza che abbiamo di legge di stabilità e di finanziarie prima è che ci sono in genere molti buoni propositi, poi quando la manovra passa all'esame del Parlamento spesso vengono introdotte delle modifiche che appunto stravolgono a volte persino lo spirito della legge. Molti appunto gli approfondimenti, come vi dicevo, li trovate alle pagine 2-3, la cronaca di tutte le persone che sono intervenute ieri a Capri. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche un richiamo proprio allo speciale manovra, e qui non tanto sugli interventi, sui commenti, ma proprio sulla sostanza. È una con proprio uno speciale che esamina tutti i provvedimenti, provvedimento per provvedimento. Lo trovate poi a pagina 8 e 9, lo vedremo poi dopo. In particolare si guarda a quello che cambierà per le imprese e per il pubblico impiego. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, come ogni domenica, la lettera al risparmiatore, la pagina che il nostro collega di finanza Vittorio Carlini dedica a un titolo quotato. Questa settimana si concentra su Mediobanca, la sfida è crescere nella gestione di asset alternativi. Per quanto riguarda i commenti invece, sempre sulla manovra, uno è di Alberto Quadrio Curzio, l'economista Alberto Quadrio Curzio, e si intitola "Il nuovo paradigma mette l'Europa sotto esame". Avrete sentito sicuramente, perché venerdì mattina qui a Radio 24 Renzi ha risposto alle domande di Alessandro Milan e Oscar Giannino, toccando proprio anche il tema dell'Europa e di come l'Europa giudicherà e reagirà a questa legge di stabilità. E l'altro commento, sempre sulla legge di stabilità, di Luca Ricolfi: senza riduzioni di spese la rivoluzione è a metà. E anche su questo, sul fatto che c'è molta incertezza appunto sulla spending review, che pare parecchio ridotta rispetto alle intenzioni iniziali, vedremo che ci sono altri commenti anche su altri giornali. E per quanto riguarda sempre gli appuntamenti fissi della domenica, l'intervento dell'arcivescovo di Chieti Vasco Bruno Forte, che naturalmente si focalizza un po' sul tema più attuale per quanto riguarda la Chiesa, che è il sinodo della famiglia, una Chiesa libera, vivissima e fedele. Questo è il commento di Bruno Forte. La prima pagina del Corriere della Sera ha un titolo diverso, dedicato alle unioni civili, e precisamente a quello che il Corriere della Sera definisce lo strappo sulle unioni civili. Anche qui l'avrete sentito probabilmente nei GR, nei telegiornali. È una polemica che è iniziata ieri, è scattata ieri tra il ministro delle riforme Maria Elena Boschi e il nuovo centrodestra, in particolare Angelino Alfano, ministro dell'interno ma appunto esponente del nuovo centrodestra, perché su questa legge sulle unioni civili, sulla quale il PD sembra ora voler accelerare, l'NCD non è d'accordo, e Maria Elena Boschi ha risposto: cerchiamo altri voti. La Repubblica apre invece sulla manovra: tagliare le tasse non è di destra. Questa è una dichiarazione di Matteo Renzi, fatta ripetutamente nei giorni scorsi, ripetuta ieri, e però la Repubblica unisce questa dichiarazione e questa attualità della manovra finanziaria, della legge di stabilità, appunto al tema delle unioni civili, governo diviso sulle unioni civili. La fotonotizia però è dedicata a un omicidio che c'è stato ieri a Colonia in Germania. È stata uccisa una candidata a sindaco ed è un'uccisione con uno sfondo di odio xenofobo. Era infatti il tema che maggiormente segue questa candidata sindaca a Colonia è l'immigrazione, e da qui proprio anche con tanto di rivendicazione questo assassinio a sfondo xenofobo. Il titolo del Messaggero è ancora diverso, perché il Messaggero ha un'intervista al ministro Delrio, il ministro delle infrastrutture, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, poi che ha poi sostituito Lupi, il ministro Lupi, quando si è dimesso, ed è attualmente ministro delle infrastrutture. In questa intervista Delrio spiega che verrà introdotta una moratoria per il Giubileo sugli scioperi, quindi per garantire ai cittadini e a tutte le persone che visiteranno Roma per il giubileo di poter almeno usufruire di tutti i servizi senza interruzioni improvvise date da scioperi. Dice Del Rio: garantire ai cittadini regole necessarie come per Expo. E poi parla anche delle infrastrutture più in generale e degli investimenti che verranno fatti, pari a 11 miliardi. Per quanto riguarda poi le infrastrutture romane e l'ATAC in particolare, cioè l'azienda dei trasporti che è di nuovo nella bufera per una sporchissima vicenda di appalti truccati o comunque di tangenti, in leasing all'ATAC i nuovi bus acquistati da noi, dice Del Rio. La fotonotizia però è dedicata alla vittoria della Roma di ieri, che ha vinto 3-1 sull'Empoli nell'anticipo che c'è stato all'Olimpico. E poi, siccome questo è stato anche, c'è stato anche il gol numero 500 di De Rossi, che è uno dei giocatori simbolo della Roma, da qui appunto la fotonotizia. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX. Non parliamo spesso di giornali locali, però qui veramente è una notizia che nessun altro giornale quotidiano nazionale dà, ma che mi sembra comunque importante. Il titolo è Liguria, il piano del cemento. Con ogni probabilità domani verrà approvata questa riforma della giunta Toti, che è il governatore della Liguria. Ci saranno fondi alla sanità e scontro con il governo, perché sarà possibile, grazie a questa riforma, costruire anche nei parchi, per esempio nel famoso Parco delle Cinque Terre, e i sindaci non potranno opporsi. L'assessore all'urbanistica della Liguria, Marco Scajola, che è tra l'altro il nipote dell'ex ministro degli interni, no? Claudio Scajola, che tutti ricordiamo, coinvolto in numerosissime vicende giudiziarie e dimessosi due volte dai suoi incarichi, lo aveva annunciato ai lavoratori del settore edile: faremo ripartire il motore. Quella che ora verrà proposta è una cura da cavallo a base di cemento. Ricordo tra l'altro che il Secolo XIX non è un giornale di centrosinistra o particolarmente così critico verso il centrosinistra, anzi, quindi il fatto di criticare così duramente con un articolo in prima pagina e che poi continua tra l'altro con approfondimenti a pagina 5, a pagina 19 del Secolo XIX, questa riforma della giunta di centrodestra guidata appunto da Toti, è secondo me abbastanza significativo. Cioè sicuramente quella che viene chiamata una colata di cemento è sicuramente un pericolo per una terra martoriata dalla speculazione edilizia negli ultimi 30 anni come la Liguria. La Stampa ha una titola ancora a sua volta sulle unioni civili e su questa frattura nel governo, perché sappiamo che il governo nel nostro piccolo, diciamo, una grossa coalizione tra appunto il PD e il nuovo centrodestra, e questa frattura tra Angelino Alfano, e tra l'altro che interpreta il pensiero di numerosi membri del suo partito, e il PD, in particolare con le parole di ieri come abbiamo visto, del ministro Boschi. La fotonotizia però ve la segnalo perché è dedicata a un reportage che poi trovate all'interno alle pagine 12 e 13 di Federico Taddia, che sicuramente è un nome che gli ascoltatori di Radio 24 ben conoscono, è un nostro storico collaboratore, e oggi comincia questo viaggio della Stampa tra le eccellenze artigiane in Italia. Federico comincia con il raccontarci la bottega dove a Venezia, dove si costruiscono le gondole. Vi racconto con quanto amore si fa una gondola. Ed è in particolare il racconto di questo di Roberto Tramontin, che è appunto uno squerarolo, come si dice nella lingua veneta, ma anche in italiano, cioè costruttore di gondole, fa da sempre questo lavoro e dice: per me è DNA, ma è soprattutto passione. La prima pagina dell'Avvenire è dedicata alle parole del Papa. Il Papa alla Chiesa: io garante di unità, le conferenze episcopali decidano di più da sole. C'è questa apertura in questo discorso programmatico di Francesco per i 50 anni del Sinodo, con un'enfasi su questa importanza della decentralizzazione. E vi segnalo però la fotonotizia, perché questa è una battaglia veramente che l'Avvenire combatte con coerenza e con costanza da tanto tempo, è quella contro il gioco d'azzardo, in particolare tutti quei luoghi in cui è veramente facile giocare d'azzardo, non ci sono barriere neanche per chi è minorenne. E l'approfondimento a pagina 9, intitolato anche appunto una mobilitazione permanente contro l'azzardo. Di fatto Non ci sono leggi che veramente proibiscano la diffusione, per esempio in particolare delle slot machine o di altre macchine per giocare d'azzardo all'interno dei bar. L'Avvenire annuncia che anche il Movimento 5 Stelle si è unito a questa battaglia contro nuove aperture di sale, appunto, dove si possa giocare d'azzardo. L'Unità titola "Arrivano i Monuments Men", perché l'UNESCO, che è l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di cultura, di patrimonio culturale, ha approvato questa proposta, che viene anche stata una proposta italiana messa a punto dal nostro ministro della cultura Franceschini, definita anche dei caschi blu della cultura. Sarebbero appunto dei soldati che si spera non combattano e non usino le armi, che però proteggano i siti e le opere d'arte. Il titolo Monuments Men in realtà è riferimento a un film con George Clooney che è uscito qualche mese fa, che raccontava appunto le vicende di alcuni, in questo caso davvero dei soldati, che però durante la Seconda Guerra Mondiale si dedicarono anche e soprattutto a salvare alcuni monumenti dalla furia del conflitto. Il manifesto titola una fotonotizia dedicata al grande raduno di Imola, che è in corso a Imola, del Movimento 5 Stelle. "Fateci largo", parte da Imola la corsa dei grillini per le amministrative di prima. Una kermesse di 2 giorni per accreditarsi come forza di governo dell'Italia e lanciare una sfida al PD. Il manifesto è in effetti l'unico giornale che dà tanta enfasi a questo incontro dei grillini. Noi però ci lasciamo un attimo per una pausa e anche per le informazioni sul meteo. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura di 3B Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24 da Stefania Cattaneo. Tempo in peggioramento oggi su Alpi, Nord-Est, Toscana, Umbria e Marche entro la serata, con piogge sparse. Buono sulle regioni meridionali e sul resto del centro, con ampi spazi soleggiati e clima in linea con le medie del periodo. Domani invece il maltempo interesserà soprattutto il centro, la Campania, il Molise e parte dell'Alta Puglia, con piogge e rovesci talora di forte intensità. Nel frattempo tornerà a prevalere il sole su gran parte del nord, ma attenzione alle nebbie che potranno presentarsi in banchi nelle ore notturne sulla Valpadana. Per il momento da Trebi Meteo è tutto, aggiornamenti scaricando la nostra applicazione oppure consultando il nostro sito. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali italiani, ci mancano ancora quella del Giornale, che è dedicata a questo, quello che viene definito un divorzio in corso. Renzi Alfano salta l'unione in civile abbiamo visto come appunto questa polemica sulla legge che verrà presto approvata, così dice il ministro per le riforme Boschi, sulle unioni civili, sulla quale però NCD, tra l'altro per bocca appunto principalmente del ministro degli interni Alfano, esponente di punta del DNCD, appunto su questa legge il nuovo centrodestra non è d'accordo. La fotonotizia però è dedicata a un incontro che non ci sarà, una lectio magistralis che non ci sarà alla Camera. Ce lo racconta Magdi Cristiano Allam. Schiaffo alla Boldrini, il suo imam resta a casa, salta la visita a Montecitorio del religioso che professa la distruzione di Israele. E tra l'altro a pagina 12 trovate anche una descrizione, trovate anche su altri giornali ma non con questo spazio, con questo dettaglio, di questo sito, di questi tutorial terrificanti fatti da alcuni palestinesi che insegnano sul web come accoltellare e uccidere gli ebrei. E appunto Fiamma Nierenstein racconta come esistano questi video e come tra l'altro siano anche stati molte volte visti e scaricati. Libero ha un'apertura ancora diversa: agli immigrati i soldi dei poveri, per l'emergenza indigenti in questa grande mega legge che è la legge di stabilità ex finanziaria vengono stanziati 600 milioni, l'emergenza degli sbarchi previsti invece 4 miliardi, da qui appunto il titolo "Agli immigrati i soldi dei poveri". C'è anche un accenno agli ultimi dati della Caritas, che ha spiegato come siano sempre di più gli italiani, lo vedremo anche sull'Avvenire, che chiedono aiuto. Ci sono 8 milioni di cittadini italiani in difficoltà e la metà, secondo appunto i dati della Caritas, sono in totale miseria. Un accenno infine alla Gazzetta dello Sport, che oltre a naturalmente fare la cronaca degli anticipi di ieri, si chiede chi è da scudetto. Questa sera ci sarà la partita Inter-Juventus che, nonostante quello che dichiarano i due allenatori, potrebbe essere, secondo la Gazzetta, già un test verità. Ma veniamo alle pagine interne. Dicevamo sul Sole 24 Ore, un approfondimento che continuerà nei prossimi giorni sulla legge di stabilità e quelli che vengono definiti i conti della manovra. La pagina 8 è dedicata a tutto quello che riguarda le imprese, via d'uscita agevolata dalle società di comodo, e qui in particolare c'è un focus sul taglio all'IRES al 24,5%, che però è vincolato al sì di Bruxelles. Più fondi per il Made In, niente modifiche sul Patent Box. E per quanto riguarda invece il pubblico impiego, tutti i dettagli a pagina 9, più difficile assumere, turnover al 40%, arrivano in Italia le buste paga dei dirigenti, sforbiciata del 10% alle spese del personale dello Stato. Anche qui tutta una pagina, e poi anche l'anticipazione di quello che verrà poi spiegato da partire da domani fino a venerdì su tutti i dettagli appunto della legge di stabilità. Spostiamoci sulle pagine interne del Corriere della Sera. Qui c'è Mario Monti, ex premier, è uno di quei politici tecnici o tecnico prestato alla politica che comunque non si rassegna, e anche continua a essere senatore della Repubblica, però non si rassegna così a non dire la sua di quando in quando. E qui c'è un'intervista che occupa una pagina intera, la pagina 6 del Corriere della Sera, Federico Fubini, il titolo: il premier cerca consenso, il debito può attendere. Vi leggo l'ultima domanda risposta: come giudica l'impostazione generale della politica economica del governo? E Mario Monti risponde: a me è molto piaciuto il Renzi iniziale, quello delle riforme strutturali, quelle economiche, mentre ho molte riserve sulle riforme istituzionali, condotte con coraggio e per il futuro dell'Italia. Vedo con preoccupazione lo smorzarsi di questo impulso e il subentrare di due componenti: la convinzione che l'esborso di denaro pubblico favorisca la crescita, una visione un po' arcaica della sinistra, e l'assecondamento degli animal spirits imprenditoriali più con la rimozione di tasse e di regole che con l'introduzione dello stimolo di una forte e rigorosa concorrenza e di effettive liberalizzazioni, una visione conservatrice più che liberale. Questa è l'opinione di Mario Monti. Vi segnalo poi una pagina dedicata, che parte da un fatto di cronaca gravissimo accaduto ieri a Napoli, con questo ragazzo di 24 anni che è rimasto vittima di una lotta interna della camorra, ma è rimasto a terra, il suo cadavere ignorato per ore in quella che viene definita da Marco De Marco la zona grigia intorno alla camorra. E c'è un po' anche con dei numeri il quadro della situazione, con appunto questi numeri: per esempio 300 le rapine in strada per 100.000 abitanti, è il valore più alto in Italia, il dato naturalmente è riferito a Napoli, circa il doppio rispetto a grandi centri come Milano, Torino e Catania. E in questa stessa pagina trovate una notizia che trovate anche su altri giornali, però appunto viene legata perché appare un intreccio tra realtà e finzione. Ieri c'è stata una proiezione a Roma di questo film Suburra, che in realtà non riguarda Napoli, è ambientato interamente a Roma, è tratto da un libro di De Cataldo, dove si dipinge uno scenario di criminalità. Io l'ho visto ieri, è un film abbastanza sconvolgente, tra l'altro sembra, non si capisce appunto quanto ispirato alla realtà, perché poi in realtà ci sono una serie di fatti che ricordano tantissimo Mafia Capitale, ma anche per esempio il funerale dei Casamonica. Lo spunto di cronaca è che a questa proiezione del film Suburra, l'uomo dei clan, di uno dei clan di Roma, questo Francesco Spada, si è fatto fotografare accanto agli attori, due degli attori principali del film, che sono Pierfrancesco Favino e Claudia Mendola. I due poi hanno detto di non sapere con chi si sono fatti fotografare, sembrava un fan qualunque, ma è appunto un risvolto un po' grottesco di questa proiezione, perché nel film si denuncia anche il ruolo di questi clan all'interno di Roma e tutti gli intrecci con la politica. Torniamo alla legge finanziaria. Su Repubblica c'è un approfondimento di Valentina Conta. Abbiamo detto prima come una delle tante incognite, oltre all'eventuale sì no di Bruxelles, sono le coperture, che potevano, in realtà all'inizio si diceva potessero venire dalla spending review, però questa spending review è stata dimezzata e ora mancano 3 miliardi. E da qui l'indiscrezione di Valentina Conta, che in realtà era girata anche nei giorni scorsi, che Roberto Perotti, l'economista, anche ex collaboratore forse tornerà collaborare anche col Sole 24 Ore se lascerà il suo incarico governativo. L'economista della Bocconi, che era stato chiamato per mettere a punto questa spending review, sarebbe pronto a lasciare perché molti dei suggerimenti fatti da lui e dai suoi colleghi in realtà non sono stati accolti. Poi vi segnalo una polemica, un po' l'ennesima se volete, però è un tema di cui comunque secondo me è utile e giusto continuare a parlare. La polemica è quella sulla eccessiva magrezza di molte modelle, non solo in passerella ma anche di quelle utilizzate per i servizi fotografici. In questo caso la polemica ha investito un mensile Marie Claire che ha messo in copertina una modella molto magra, una taglia 38. Le lettrici hanno protestato e la direttrice del mensile si è sentita in dovere di spiegare che comunque sembra una ragazza molto magra ma sana, perché esistono anche le ragazze taglia 38 sane. La polemica però non si spegne, poi come tutti sappiamo oggi appunto un mensile ha anche un suo sito, quindi le voci e i commenti continuano a rimbalzare anche sul sito del mensile. L'articolo è di Vera Schiavazzi: lettrici in rivolta, quella modella sembra malata, basta taglia 38. Però come vi dicevo, questo è il caso di oggi, di ieri, però è un tema di cui spesso si discute, questo dell'immagine che la moda dà attraverso l'utilizzo di modelle troppo magre, sia in passerella che per le campagne pubblicitarie o per i servizi di moda. Vi segnalo come vi avevo detto prima, richiamato in prima pagina sulla Stampa, trovate a pagina 12 e 13 questa prima puntata del viaggio della Stampa nelle eccellenze artigianali italiane, con questa prima puntata dedicata a uno squerarolo, cioè l'artigiano che fa le gondole, Roberto, una vita intera a forgiare gondole nella Venezia più poetica, ce lo racconta Federico Taddia sulla Stampa. Da Libero vi segnalo l'ennesimo articolo criticissimo contro Papa Bergoglio di Antonio Socci, esponente di Punta di Comunione Liberazione, che conduce una sua battaglia più o meno personale, non si capisce, contro Papa Bergoglio, e in questa domenica si dedica a quello che pare il contrasto di una spaccatura anche all'interno del sindaco, con in particolare la posizione di Tomas Peta, arcivescovo di Astana, capitale del Kazakistan, che ha parlato di fumo di Satana, riprendendo una famosa frase di Paolo VI, e per attaccare il Vaticano sulle concessioni a divorziati, coppie di fatto e omosessuali. Questo fumo di Satana sarebbe, secondo questo cardinale, entrato nel sinodo. Prima di lasciarci un attimo per il traffico, l'ultima segnalazione dalle pagine interne dei giornali, dall'Avvenire, un racconto della P101, così la Olivetti inventò il primo PC. Poi trovate questa notizia anche su altri giornali, la vedremo. E vi dicevo i dati della Caritas, ma anche i dati sui beni confiscati alla mafia, che sono saliti del 30% in 3 anni, lo racconta l'Avvenire a pagina 3 dell'inserto interno dedicato a Milano e Lombardia. La Lombardia è la quinta regione in Italia per queste confische, però è la prima al nord. C'è un allarme di Coldiretti, tra l'altro, per quanto riguarda il comparto dell'agroalimentare, dove sarebbero numerose le infiltrazioni della criminalità organizzata. Ci lasciamo un attimo per il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e eccoci all'ultima parte della nostra rassegna stampa. Vi segnalo ancora dall'Avvenire una pagina dedicata alla Fiorentina, che oggi sarà in campo con il Napoli alle 3 a Napoli, però qui il tema è un altro, non è di stretta cronaca calcistica, potremmo dire così. Il titolo: lo scudetto solidale della Fiorentina, perché il club viola, che oggi appunto è in campo con il Napoli, da 6 anni è partner di Save the Children e ha salvato le vite di migliaia di bambini a rischio. L'ultimo progetto in Etiopia, 1 milione di euro investiti nell'ospedale di Karat. E appunto si racconta come almeno vedremo a chi andrà lo scudetto quest'anno. La Fiorentina sicuramente sta giocando molto bene, ma intanto ha già vinto quello appunto della solidarietà. Veniamo proprio ai supplementi culturali, e come sempre cominciamo dal nostro, da quello del Sole 24 Ore, dalla domenica. Vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola La memoria, e la citazione è di Montaigne. Una buona memoria è un buon dono di Dio, ma poter dimenticare è talora un dono divino ancora migliore. Montaigne era convinto che la memoria fosse l'astuccio della scienza, ed effettivamente una memoria vivace e selettiva è ben più preziosa di quella informatica che ti vomita materialmente migliaia e migliaia di dati inclassificabili e alla fine inutilizzabili. Di questo era convinto anche lo scienziato e scrittore settecentesco Georg Kr. Lichtenberg, nell'aforisma sopra citato. Egli però aggiungeva una precisazione preziosa: anche la capacità di dimenticare può essere ugualmente decisiva. A questo proposito è suggestivo un racconto di Borges che immagina un incontro di Caino e Abele nell'aldilà. Abele non ricorda più se fu lui il colpito a morte o piuttosto il colpevole del fratricidio. Caino allora gli confessa: ora so che mi hai veramente perdonato, perché perdonare è dimenticare. Ogni tanto è necessario resettare la pagina sovraccarica della memoria perché ritorni bianca per una nuova scrittura. E poi la rubrica del nostro direttore, del Sole 24 Ore di Radio 24, Roberto Napoletano, che riprende un po' quella della settimana scorsa, dove Roberto Napoletano raccontava dell'incontro con due giovani italiani che laureati in medicina, che però andavano a lavorare in Inghilterra, e racconta altre storie di cervelli in fuga con tre testimonianze. Il titolo: L'Italia del ceto medio che parte e la Silicon Valley che Milano merita. E poi la conclusione Napoletano, aspettate che non trovo, è scritto talmente piccolo perché occupa oggi l'intera parte bassa della copertina della domenica. Eccoci: perdere oggi il momento buono dei nuovi germogli di una ripresa possibile, frutto di una congiuntura internazionale a noi favorevole, di un'azione faticosa di riformismo sul piano interno, per inseguire magari consensi elettorali a breve o piegandosi a semplicismi di troppo, sarebbe un delitto. Non ce lo possiamo permettere come padri, soprattutto non ce lo perdonerebbero i nostri figli. Ma la copertina in realtà è dedicata a un articolo sempre di Gianfranco Ravasi, molto coraggioso trovo, che si intitola Sesso e gender senza pregiudizi. Prende spunto da quattro libri su questo tema. Da maschio a femmina si è passati a un genere variabile in base alle scelte della libertà individuale. Su questo complesso orizzonte è intervenuta, raccogliendo la sfida, anche la Chiesa Cattolica. E poi vi segnalo invece dalle pagine interne un articolo di Luciano Melani che si intitola Non c'è una formula per fare un bestseller. Il caso è quello del libretto di Carlo Rovelli, 7 lezioni di fisica, che è diventato effettivamente un bestseller a sorpresa, perché questo fisico si è anche rivelato un grandissimo divulgatore, però appunto non esiste in realtà la formula per un bestseller, sia questo di divulgazione o anche di un romanzo, l'approfondimento appunto di Luciano Melani. Vi segnalo poi la recensione di Cesare De Michelis all'ultimo libro di Claudio Magris, Non luogo a procedere, intitolata L'elettroshock della storia. E poi un'altra recensione a un altro libro molto interessante di Jonathan Gottschall, che si intitola Il professore sul ring, perché gli uomini combattono e a noi piace guardarli. La recensione di Luigi San Pietro, intitolata Botte al professore. Passiamo al supplemento del Corriere della Sera, dedicato alla cultura. Di domenica la copertina è come sempre affidata a un artista, questa settimana è Rebecca Horn, un'artista tedesca. E poi abbiamo appena parlato di Carlo Rovelli, anche sulla lettura, pagina 2 e 3, Carlo Rovelli ci dà un altro esempio di divulgazione, si dedica a Aristotele. Aristotele, che fisico, le sue teorie scientifiche godono di cattiva fama, ma a torto, furono la base dei successivi progressi. E poi sempre dalla lettura un articolo di Vincenzo Trione, Nemica noia, vita nomade di Dorfles. In questo caso si parte dal volume Gli artisti che ho incontrato di Gillo Dorfles, che sarà in libreria a fine ottobre e verrà presentato il 24 ottobre, settimana prossima, in questa grande kermesse milanese dedicata ai libri, che si chiama Book City. Gillo Dorfles ha compiuto 100 anni, è artista ma soprattutto critico, intellettuale a tutto tondo, ed è per chi lo incontra ancora, perché è attivissimo, spesso partecipa a molti incontri e presentazioni a Milano, è appunto forse il simbolo di curiosità intellettuale, in particolare artistica. In questo libro ripercorre, non è la prima biografia o autobiografia, però ripercorre ancora una volta gli incontri importanti della sua vita. La copertina della Domenica della Repubblica è dedicata a Roma. Abbiamo parlato prima di questo film Suburra, che racconta un po', racconta e non, davvero non si capisce se sia realtà o finzione, o quanto della realtà sia entrata prima nel libro da cui è tratto il film e poi nel film. In ogni caso, qui Filippo Ceccarelli ripercorre un po' la storia di Roma vicina e lontana, tra le rovine della capitale, dalla capitale d'Italia, ripensando a Goethe, al Belli e al Cecato, cioè uno dei principali indagati di Roma Capitale, dell'inchiesta Mafia Capitale. Dalla Repubblica anche un lungo articolo su Igort. Igort è un illustratore, un autore di fumetti, ma anche fondatore di una casa editrice, la Coccolino Press, che è forse oggi in Italia la principale casa editrice di fumetti e di graphic novel. Oggi è in uscita un suo nuovo libro, il titolo Il mio impero dei segni. L'articolo è firmato da Luca Valtorta. Dopo i quaderni dall'Ucraina e dalla Russia, il grande disegnatore racconta il sollevante, il Giappone, nella fabbrica dei manga che ho imparato tanto. Ecco in prima le tavole del suo lungo viaggio. Dato il libro è stato presentato anche al Festival del giornalismo di Ferrara 2 settimane fa, sempre in anteprima, e appunto adesso finalmente esce. Dalla pagina della Repubblica vi segnalo anche una bella recensione alla mostra di Miró, che è in corso alla Villa Manin di Passariano vicino a Udine, con 250 dipinti di questo grandissimo artista. Alias, invece, del Manifesto dedica la sua copertina all'ultimo libro di Martin Amis, il grande scrittore inglese, mentre Macro del Messaggero ha un approfondimento su quella che viene chiamata la corsa alla Luna. Oltre, dopo lo sbarco del 69, non ci sono più stati tentativi di successo per sbarcare sulla Luna, ma ora, forse parlando anche di un futuro sbarco su Marte, riparte appunto questo, riprende forma questo sogno dell'uomo di colonizzare, tra virgolette, o comunque di avere almeno una base sulla Luna. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Grazie a Filippo Aureggi in regia per avermi tenuta nei tempi. Leggete, comprate i giornali di oggi, sono ricchissimi di approfondimenti oltre che di cronaca. E ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.